che oggi è il mio fabbisogno giornaliero. Torna intorno il mondo, quasi conta zero. E chi sogna zero a mille, io che sogno mille a zero. Spero di levarmi il nero sotto le pupille al cielo. Se lo vedo dai tuoi occhi, indicarlo mentre ti parlo è come se lo tocchi. Scelgo te perché con te sto scialle. Io con questo parlo e ti mando a fare in culo se mi blocchi. E cosa vuoi che importi se ti vogliono in troppi? Sai non ci sono intoppi, se quando sono in fotti sto dentro i miei jeans rotti che spengo i sensi indotti fino a farmi cancellare tutti i dubbi insorti. E ne accendo una colazione per scrivere, per togliere dalla circolazione le vipere. Sono arrabbiato ma con l'intenzione di ridere. Riuscire a farlo è la motivazione per vivere. Se parte di me, ed io però ti tengo sotto chiave. E se il cuore io te vigio. Se parte di me, ed io però No, che non posso farci niente, che qualunque cosa faccio, Cristo tu mi piaci sempre. Se la sera sto uno straccio, verso il gilemmo col ghiaccio. Mi rilasso ma abbraccio a te, so che non mi lasci mentre resto solo e schiaccio play. Finché viaggio e stracci mente, ossa, cuore e polmone. E molto altro facilmente, baci sempre, divinamente e bene. Se mia da sempre, anche te come me, sai che non puoi farci niente. E solo quando sento la tua essenza nella stanza, capisco che di te no, non ho abbastanza. Se la mia luce nelle sere di buio, presto, quando esco presto per baciarti ancora sulle labbra. Perciò trovo scontato dirti che ti amo. E do per scontato anche che se non te lo dico quasi mai non litighiamo, ma io ti amo. Ehi, hey, io lo so che tu lo sai. Se parte di me, ed io però ti tengo sotto chiave. E se il cuore io te vigio. Se parte di me, vedi io però ti tengo sotto chiave. Te sei il cuore, io bevi già. Mi rilasso ancora per un attimo, distratto dal tuo battito. Il fatto che intorno il mondo è un disastro. E spasso intere sere a bere coi fratelli e scrivere con te, che altrimenti sta vita è un incastro. Non sono mai stato bravo a fingere, so solo stringere i denti e non farmi sconfiggere. È difficile capire ciò che voglio, non è vincere. So solamente che sta merda mi ha strappato il cuore dalle viscere. E ti fai film, io rimango qui, tra il fuoco che c'ho in testa e ciò che resta di sto beat. Con il giorno che passa un po' più rapido, mentre se mi abbandoni resto fermo a lunedì. Va così, ho perso tempo, il tempo mi abbandona spesso. Sento spento dentro in musica che suona immerso. Quando è il tuo momento, adesso che non mi lamento. Perso tra bicchieri e camel, verso dopo verso il tempo scade. L'ansia che ti sale, ti sale, ti sale, ti sale. Se parte di me, ed io però ti tengo sotto chiave. E se il cuore io te